Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maridia ai microfoni anche questa sera. Vi augura il benvenuto e di trascorrere una piacevole trasmissione in mia compagnia e dell'ospite che sto per intervistare. Sono particolarmente emozionata perché penso di aver intervistato più di 400 persone nel corso di questi quasi 8 anni di Brussellando, eppure è la prima volta, c'è cioè sempre una prima volta anche per noi giornalisti che intervisto un astronauta. Quindi sono particolarmente contenta anche perché questo mi permette di variare anche rispetto alle tematiche di cui mi occupo abitualmente. Per quanti sono esperti della materia, seguono l'argomento, avranno capito che si tratta di Maurizio Kelly, uno dei 7 astronauta italiani che hanno viaggiato nello spazio. Ricordo, e mi fa piacere anche ringraziare la Monte dei Paschi, la quale ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con Maurizio, il quale sarà proprio presso la Monte dei Paschi, giovedì 3 marzo, a raccontare del suo libro Tutto in un istante e probabilmente a raccontare anche della sua storia personale, che vi assicuro essere estremamente interessante e straordinaria. Quindi abbiamo avuto la possibilità di contattare telefonicamente Maurizio proprio alla vigilia della sua visita a Bruxelles. Quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato al telefono proprio qualche giorno fa. Maurizio, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Benvenuti, grazie mille. Caro Maurizio, come dicevamo proprio prima di cominciare questa intervista, ovviamente io avevo avuto il piacere e modo di conoscere della tua storia attraverso un servizio televisivo, credo di qualche tempo fa. Quindi quando mi è giunta la possibilità di poterti intervistare, ovviamente ho accolto diciamo, questa opportunità con grande gioia. E tra i tuoi primati potrai sicuramente annoverare un primato magari meno significativo, almeno statisticamente, cioè che sei il primo astronauta che Maridì di Brussellando e Radio Alma intervista in circa 400 interviste, il che magari comunque ha un suo perché, ecco, perché tra le categorie varie e diverse, tra attori, scrittori, registi e altri, insomma, tu sei il primo astronauta, quindi insomma, sono oltremodo onorata di poterti annoverare tra i miei ospiti, ma tu non sei solo astronauta. Sei pilota, ingegnere, recentemente anche imprenditore. Però allora, prima di raccontare di queste tue passioni, come nasce quella più vera che mi sembra di capire che è per il volo? Nasce un po', direi, non dico per caso, ma è qualcosa che mi sono sempre sentito dentro. Fin da quando ero bambino, sto parlando di 5-6 anni, prima volevo fare le solite cose che vogliono fare i bambini, volevo fare il cameriere, guidare un camion, e poi un giorno ho visto passare un aeroplano militare sopra la mia testa, a bassissima quota. Ho guardato su e allora mi sono detto voglio fare il pilota e da allora non ho mai più cambiato idea, è qualcosa che mi sono sentito crescere dentro con gli anni a cui ho dato seguito diciamo sia negli studi che con l'Accademia Aeronautica e con una sono detto pilota militare, poi pilota collaudatore e questo mi ha portato a diventare pilota professionista. Però secondo te, quello che chiedo anche agli artisti, perché mi sembra di capire che le difficoltà riscontrate o comunque la tenacia che tu hai avuto negli anni ti abbia premiato. Quindi fare oppure ambire a diventare astronauta è una vocazione secondo te oppure ci si diventa? Diventare astronauta è stato un qualcosa che è cresciuto io avevo deciso di fare il pilota, sembrava una di quelle professioni impossibili in Italia, perché in Italia allora non aveva ancora volato nessuno, quindi una di quelle attività riservate solo a russi o a americani. Invece poi un giorno, diciamo, il desiderio di diventare astronauta, che era sempre rimasto latente dentro di me, perché a chiunque piace volare, a un certo punto un po' come chi guida la macchina, quindi una persona più stanca di guidare la macchina, vogliono sempre andare un po' più veloce e un po' più lontano, ecco, con l'aeroplano è l'altra cosa, più veloce e un po' più in alto, e l'astronauta, diciamo, un po' lo sbocco naturale di chiunque sia affetto dalla passione del volo. Allora, dicevi prima una cosa, prima di proseguire vorrei veramente cogliere questa occasione per farti una domanda. Non me ne vogliono gli amici ascoltatori, ma in questo periodo sto rivedendo anche il mio lessico. Allora mi devi chiarire la differenza tra cosmonauta ed astronauta, ti prego. Ma non ci sono molte differenze, non è solo questione di semantica. Normalmente vengono definiti astronauti coloro che hanno gli americani o coloro che hanno volato con gli americani. E cosmonauti invece è una caratterizzazione, in effetti, della stessa professione, però fatta con i russi, perché i russi chiamano gli astronauti cosmonauti, e quindi, ma non c'è differenza, diciamo, nella tipologia. Bene, allora potrò dire che me l'hai detto tu, quindi sarò ancora più fiera di poter distinguere o comunque assimilare nella stessa categoria le due figure professionali. Comunque, bando alle sottigliezze linguistiche. Sì, quindi dicevo, poi un giorno, diciamo, questo desiderio di fare l'astronauta ha trovato il suo sbocco in un concorso dell'Agenzia Spaziale Europea che fu pubblicato all'inizio del 91, 1991, in cui per la prima volta l'Agenzia Spaziale l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, voleva selezionare astronauti, tra virgolette, professionisti. Quindi, allora, hai dovuto partecipare ad un concorso, come tante altre professioni, e ci racconti come ci sei riuscito? Allora, quindi il concorso ad un concorso pubblico, quindi un annuncio che è uscito su diversi giornali in Italia, così come nel resto d'Europa, e quando dico resto d'Europa, ovviamente nei paesi che allora facevano parte dell'Agenzia Spaziale Europea, e con la quale si voleva selezionare del personale da poter inviare poi o con gli americani alla NASA o con i russi per poter poi volare nello spazio. Quindi un concorso che è durato quasi 2 anni alla fine e che ha coinvolto più di 6.000 persone a livello europeo e alla fine ne sono stati selezionati 6, di cui io ero l'unico italiano in quel momento. Quindi uno su mille ce la fa allora, è vero? Allora, toglimi ancora una curiosità. Ho sempre pensato che il lavoro di astronauta fosse un lavoro piuttosto solitario, forse perché c'è sempre l'immagine di un astronauta nello spazio. Ora sono quindi curiosa di domandarti, è vero o invece proprio no, assolutamente, cioè è più un lavoro di squadra? No, l'astronauta è sicuramente un lavoro di squadra, cioè, le missioni nello spazio sono estremamente complesse, non si avrebbe possibilità di andare nello spazio da soli, perché i compiti sono innumerevoli a bordo di un veicolo spaziale e quindi c'è la necessità di avere competenze complementari tra vari membri dell'equipaggio, per cui diciamo, l'astronauta è veramente un lavoro di team, che poi va ben oltre il team a cui uno può inizialmente pensare, che è quello dell'equipaggio vero e proprio, perché è un team molto più esteso, perché ci sono coloro che preparano gli esperimenti, gli scienziati che pensano e preparano gli esperimenti a terra, c'è tutto il personale che ti segue nella fase di addestramento e soprattutto quando voli c'è il personale che ti segue nella fase di controllo del volo. Quindi ci sono effettivamente tante figure che coronano poi quella che è la vostra esperienza nello spazio. Ci sono differenze, scusami, ci sono differenze tra gli Stati Uniti e l'Italia? Mi soffermerei su questi due paesi. a livello magari a livello professionale, a livello di formazione, a livello anche a livello tecnico? Ma diciamo adesso per un italiano che vuole andare nello spazio lo deve fare o attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana o attraverso l'Agenzia Spaziale Europea, ma che comunque si appoggia sempre un tempo anche alla NASA quando c'era un sistema di trasporto americano, che però da quando c'era lo shuttle, ma adesso ne stanno mettendo appunto degli altri più nuovi, molto più tecnologicamente avanzati, oppure con i russi. Quindi il sistema di trasporto, cioè l'accesso allo spazio è ancora qualcosa che per gli anni a venire sarà riservato a russi ed americani, ma le missioni diventano sempre più internazionali, quindi se uno guarda all'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, dove ci sono perennemente 6 persone a bordo, è sempre un equipaggio costituito da persone che vengono, da astronauti o cosmonauti che vengono dai più vari angoli del mondo, americani, canadesi, giapponesi, europei, russi ovviamente, e quindi è qualcosa di molto internazionale. E su quanto riguarda diciamo la preparazione, è che chi esce da una scuola italiana in generale, ovviamente per fare l'astronauta bisogna avere un background prevalentemente scientifico, ci sono molte scuole ad alto livello in Italia e non hanno nulla da invidiare con la preparazione delle altre persone dal resto d'Europa o dal resto del mondo. Beh, questo mi sembra essere un ottimo risultato, perché credo che magari non sia più un settore di nicchia come poteva apparirlo qualche tempo fa, ma magari può dare anche più possibilità ai ragazzi appassionati di questa, soprattutto di questa materia, perché credo nasca anche come passione verso la materia stessa. Non credo che tutti sogniamo da bambini di voler fare l'astronauta oppure di voler volare nello spazio. E questo comunque è rimasto. Poi comunque si va nello spazio soprattutto per mettere a punto e per svolgere esperimenti scientifici, quindi diciamo un background scientifico è necessario. Anche se poi l'astronauta in sé non è uno scienziato, anche se gli astronauti lo sono stati nella loro carriera, ma è più un operatore, quindi è qualcuno che è in grado di svolgere dei compiti relativamente complessi in un ambiente ad alto stress, come quello di un veicolo spaziale nostro attorno alla Terra. Assolutamente. Allora veniamo invece all'esperienza nello spazio. Perché guarda, devi sapere che è veramente, mentre ti parlo, ho sensazioni molto forti nell'immaginarti veramente al di là della nostra comunque percezione, che è quella terrestre. Quindi partirei proprio dai sensi. Ma i 5 sensi bastano per gravitare nello spazio, oppure bisogna armarsi di qualcosa di più? No, bastano solamente, anche perché volare nello spazio è un'esperienza veramente multisensoriale, in cui però ovviamente la vista gioca un ruolo prevalente, perché volare nello spazio, soprattutto vedere la Terra da un altro punto di vista, e soprattutto la bellezza della Terra, per cui la vista è di più, ma poi servono anche ovviamente tutti gli altri, e poi c'è questa grande sensazione di libertà che uno prova quando può veramente vibrarsi in aria, perché certo, lo spazio non è solo volare con un veicolo spaziale attorno alla Terra, ma anche volare con il proprio corpo, una sensazione, è la scoperta della terza dimensione in un certo senso, in maniera molto quanto non si possa fare sulla Terra. Ci sono difficoltà, oppure ci sono momenti in cui invece dell'emozione, della gioia, di questa sensazione, come tu dicevi, di libertà, dove invece prevalgono difficoltà, magari anche semplicemente emotive, dovute alla paura, dovute all'ambiente stesso nel quale vi ritrovate? Sì, beh, difficoltà ci sono in qualunque tipo di attività, e quindi ci sono anche per chi vola nello spazio, sono le difficoltà della attività, perché è molto intenso anche di rimanere concentrati e focalizzati sulle cose che si fanno, perché quando uno le ripete innumerevoli volte, alla fine se lo quasi annoia, ma poi uno scopre di quanto sia importante invece questa tipologia di addestramento. Difficoltà di adattamento all'orbita terrestre, perché è un mondo per cui il nostro corpo non è stato pensato e costruito, perché noi siamo fatti per vivere sulla Terra, e quindi c'è sicuramente un periodo di adattamento che può essere più o meno lungo a seconda degli individui, e c'è sicuramente anche un senso, un certo qual modo di isolamento qualche volta, perché uno pur orbitando attorno alla Terra e vedendola è in qualche modo staccato da essa, e quello che comunque rimane il nostro mondo. E poi ci sono le attività legate alle difficoltà legate all'attività, che appunto il veicolo spaziale è sempre molto intensa, quindi il tempo è utilizzato veramente in maniera molto, molto compiuta, e per cui uno non ha tutto questo tempo libero a volte, quindi diciamo anche difficoltà proprio quindi legate all'intensità del lavoro. Tu sei rimasto, se non ricordo male, a bordo 17 giorni. Scusami, 16 giorni, ma la differenza notte e giorno come la vivete rispetto alla vostra abitudine, alle abitudini, quelle? Sì, notte e giorno, il concetto di notte e giorno sparisce in qual modo, perché si deforma, perché noi sulla Terra siamo abituati ad avere un ciclo notte e giorno ogni 24 ore, a bordo invece uno ha un ciclo notte e giorno ogni ora e mezzo, perché ogni 90 minuti uno compie un'orbita terrestre, quindi ci sono circa 45 minuti di giorno e 45 minuti di notte, ogni ora e mezzo uno di un'alta, un tramonto per 16 volte al giorno. Beh, deve essere comunque un'emozione effettivamente, non so se si possa descrivere, ma sicuramente, sicuramente unica. Veniamo invece a quello che tu dicevi prima, quello che si vede. Come si vede la Terra da lontano? Che cosa ti ha colpito la prima volta che hai visto da lontano il pianeta Terra? Allora, uno quando va in orbita terrestre o con lo shuttle o con la Soyuz, adesso con la sua stazione spaziale, non va così lontano come uno può inizialmente pensare. Si va a circa 400 km di quota. Normalmente, racconto, sono 3 ore e mezzo di macchina se uno ci pensa, se potesse andare e guidare in verticale. Per cui non si vede la Terra come una piccola pallina, come qualche foto ci ha fatto vedere, perché così la si vede solo dalla Luna, che sta a quasi 400.000 km. Dall'orbita terrestre, dalla stazione spaziale, lo shuttle, si vede la Terra di dimensioni di un continente. Quindi quando uno guarda giù, vede l'America, vede l'Africa. Ma diciamo, a distanza sufficiente per apprezzare molto bene la curvatura della Terra, la piccolissima striscia azzurra dell'atmosfera che mantiene la vita sulla Terra così come noi la conosciamo, e vedere i colori stessi della Terra, che sono invertiti rispetto alla cognizione che noi abbiamo, perché noi normalmente pensiamo alla Terra di colore scuro e il cielo di colore azzurro, e quando uno va in orbita vede invece i colori al contrario, la Terra la vede prevalentemente blu e il cielo lo vede nero di un'intensità tale che così non l'avevo mai visto. Molto interessante quello che stai dicendo, perché effettivamente uno non si immaginerebbe mai un cielo nero. Forse a Bruxelles sì, visto che è sempre grigio, però magari dai cieli italiani si penserebbe ad altro. Toglimi una curiosità, quali sono i sentimenti che si provano quando sei a bordo? C'è un sentimento che prevale rispetto ad un altro? No, perché uno poi rimane la persona che è, anche se si trova in un altro contesto. C'è comunque un sentimento di fragilità della Terra che uno può apprezzare subito quando la vede da quest'altra prospettiva e vede quanto essa sia in effetti in un certo senso unica. E per cui è difficile che qualcuno torni dallo spazio che non abbia una sensazione, diciamo, di protezione della Terra inferiore a quanto era partita. Quasi tutti gli astronauti che ho conosciuto Pare che dall'alto l'inquinamento sia chiaramente visibile, nonostante c'è chi si ostini ancora a rinegarne l'esistenza. Lo confermi? Non è l'oggetto dell'intervista di questa sera, perché spero avremo modo di riparlarne. Ho saputo che hai scritto anche un libro che un po' racconta anche la tua storia, la tua biografia, tutto in un istante. Sarei curiosa di sapere... Sì, scusami, dimmi. È uscito a maggio dell'anno scorso e devo dire che sta avendo un buon successo in Italia. È in effetti un libro fatto un po' sui generis, perché non è un libro sul mio volo spaziale, anche perché molti associano il fatto di tutto in un istante all'istante forse in cui io mi sono sollevato da terra, quel millimetro che fa la differenza tra un terrestre e un extraterrestre per qualche giorno, ma è un libro che racconta anche della mia avventura spaziale, ma racconta un po' di più, in maniera un po' più compiuta, diciamo, la passione che io ho avuto per il volo e la determinazione che in generale serve per raggiungere i propri obiettivi. Quindi è un libro che è indirizzato molto ai giovani che in questo momento stanno cercando la loro strada nella vita. Questo mi sembra essere un bellissimo messaggio, perché è bello trovare storie non solo di successo, perché il successo secondo me è relativo, ma di un successo personale che riesce poi a realizzare i propri sogni di bambino. E questa è stata praticamente la parte più bella, che mi piace anche ricordare ai nostri amici all'ascolto, che ho scoperto per l'appunto mentre mi preparavo l'intervista di questa sera. Allora ti volevo ancora chiedere magari una cosa: c'è un ricordo, c'è un'emozione, un'immagine che vorresti condividere con i nostri ascoltatori, non solo relativamente allo spazio, ma in questo tuo percorso, di vita, ma anche di passione per il volo stesso? Ma c'è sicuramente un'immagine che poi quella che ha determinato gran parte delle scelte della mia vita, e che, come ho raccontato anche in questo libro, è quella di un bambino con il naso all'insù che guarda l'aeroplano passare. E mi sembra bello, perché credo che tanti bambini ancora oggi... Rappresenta un po' il sogno della mia vita, ed è un sogno che poi alla fine ho cercato di concretizzare attraverso le decisioni, delle scelte, dei percorsi di formazione che mi hanno portato. Ma è stato lo spunto iniziale, la molla iniziale che ha caratterizzato il resto delle scelte della mia vita. Hai avuto una famiglia che però ti ha anche creduto in te, che non ti ha ostacolato, immagino, nel raggiungere queste tue ambizioni. No, questo è un'altra di quelle cose che ho raccontato, perché molte volte noi parliamo di passione, allora spesse volte noi ci ritroviamo che siamo condizionati dall'ambiente culturale nel quale siamo cresciuti e vissuti, o perché vogliamo seguire la professione dei nostri genitori, o perché ci troviamo contaminati appunto da un determinato ambiente culturale. Ecco, invece certe volte, questo che ho anche raccontato, nel mio caso, da dove vengo io, non c'è un aeroporto, nessuno della mia famiglia aveva mai preso un aeroplano, neanche un volo civile, un volo commerciale, eppure per me è nata questa passione per il volo. Quindi spesse volte noi ci ritroviamo a inseguire dei sogni che nascono forse in maniera spontanea e forse sono quelli più veri, e questo è stato sicuramente per me il mio caso personale. Assolutamente. Allora, il tempo, come sai, soprattutto in radio, oltremodo tiranno, e giungiamo ormai alla fine di questa nostra breve intervista. Allora volevo sapere se ci fosse un messaggio oppure se ci fosse qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti indirizzare ai microfoni di Radio Alma e di Brussellando. Dalle nostre scelte, certo ci sono anche gli alea legati al caso, all'occasione, quello che qualcuno chiama fortuna, ma molto dipende da noi e quindi noi siamo i costruttori della nostra esistenza. E io ho sempre pensato che fosse più importante essere pronto ma non avere l'occasione che non vedere l'occasione passare e non essere pronto per coglierla. Ecco, allora certe volte noi ci ritroviamo a fare anche durante il nostro percorso scolastico, a volte studiamo delle cose che non ci sembrano utili nell'immediato, ma che poi ci possono tornare utili dopo nel proseguo della nostra vita professionale. Quindi prepararsi le proprie competenze forse è la cosa più importante che noi ci possiamo portare dietro in un futuro, in un mondo che cambia continuamente. Beh, Maurizio, sono parole veramente molto belle e spero che i nostri amici all'ascolto, sai, ci sono tanti giovani che ci seguono, quindi spero che queste tue parole possano veramente stimolare, motivare tutti coloro i quali, soprattutto inseguendo sogni, avrei capito, culturali, artistici e musicali, comunque continuino nel perseverare e realizzare i propri sogni. Quindi volevo ricordare a tutti i nostri amici all'ascolto che Maurizio Kelly sarà, come dicevo in apertura, qui a Bruxelles giovedì 3 marzo, quindi per quanti fossero stati incuriositi da questa breve discussione telefonica, potrete quindi incontrare Maurizio giovedì 3 marzo alle ore 18 presso l'Espace Monte Paschi di Belgio. Però mi raccomando, a quell'avenida del GM 22-28, quindi vicino alla fermata metro Schumann. Maurizio, c'è un saluto? Cioè, vorresti salutare qualcuno prima di salutarci? Vorrei sicuramente salutare tutti gli italiani o tutti coloro che sono legati all'Italia o perché si sono trasferiti in Belgio o perché si trovano temporaneamente in Belgio per lavoro o in ambiente governativo o anche industriale. E spero di vedervi numerosi giovedì prossimo alla presentazione del libro. Maurizio, noi ti ringraziamo e speriamo di sentirci per parlare magari più da vicino del tuo libro, tutto in un istante. Sicuramente, molto volentieri, grazie mille a voi. Ti ringrazio, a presto.